Capitolo 28. Nonostante i progressi degli ultimi 10 anni, la trasfusione rimane un intervento inquietante. Bazarov è pallido, contratto, lo sguardo puntato su un angolo del soffitto. Il volontario è uno studente di medicina, si chiama Kiryakov, ha 20 anni, e ostenta la tranquillità che si addice al suo ruolo, ma i pugni serrati lungo i fianchi, sul materasso della lettiga, tradiscono una lieve ossessione. Nonostante la guerra e il sangue versato, i corpi mutilati e le trincee, l'idea di bucare l'involucro di se stessi per ospitare nelle vene l'essenza di un altro lascia ancora molti col fiato sospeso. Natalia lo sa bene e riconosce l'ansia sul volto dei pazienti, ne valuta la gravità dalla contrattura dei muscoli e si prepara a tenerla sotto controllo. Compagni, siamo pronti per cominciare. Il suo metodo per spandere serenità consiste nel descrivere la procedura passo passo e nell'eseguirla come un vero rituale, una cerimonia che nella società futura sarà come quella del tè nell'antico Giappone. Anzitutto, affiliamo gli aghi sulla pietra abrasiva, dice, mostrandoli ai pazienti. Quindi li sterilizziamo e lubrifichiamo nella paraffina bollente per evitare coaguli. Bogdanov rimane in disparte, senza mischiarsi. Il protocollo prevede che un medico si trattenga nella stanza per la fase del prelievo e per i primi 10 minuti di trasfusione, il momento più delicato, nel quale si possono avere crisi di rigetto e reazioni di incompatibilità. Passati quelli, è molto raro che ci sia bisogno di un intervento d'urgenza. Lascia che sia Natalia a occuparsi di tutto, pronto a intervenire su richiesta. Ora i miei assistenti stringono un laccio emostatico sul vostro braccio destro. Serve a congestionare la vena per il prelievo. Bazarov si gira verso il muro. I pazienti agitati preferiscono non guardare le operazioni. Puliamo con etere la zona della puntura e iniettiamo sotto pelle una soluzione al 2% di novocaina come antidolorifico. Figlio di un medico, la ripulsa per il sangue gli ha impedito di seguire le orme del padre. Uscito dal liceo, ha scelto anche lui scienze naturali e poi le cantine dei sovversivi molto più delle aule universitarie. Arresti, espulsioni, esili, la trafila che ha scandito la loro amicizia come la malta tra i mattoni di un muro. Solo le guerre li hanno allontanati per qualche stagione, ma escluse quelle, hanno condiviso 30 anni di vita parallela e la scoperta dei primi fili bianchi tra barba e capelli. Da allora Bazarov è invecchiato più in fretta, colpa del suo timore per le trasfusioni. Altrimenti sarebbero simili anche in questo. Gli infermieri versano acqua calda in 2 bacinelle e invitano i pazienti a immergere il braccio sinistro. Il calore aiuta a rilassare le vene, spiega Natalia, mentre prepara le ampolle per il prelievo. Mescolo qui dentro una soluzione di citrato di sodio per impedire che il sangue si coaguli una volta raccolto. In questo modo, prosegue, evitiamo i rischi dello scambio diretto dall'arteria dell'uno alla vena dell'altro e possiamo operare con assoluta calma, ringraziando un medico di Buenos Aires e la sua prima trasfusione con sangue citrato. Luisa Gote, 14 novembre 1914, una data storica per il collettivismo fisiologico. Ma al di là del nome che rimane sugli annali, non è mai l'individuo a muovere la storia. Pochi mesi prima, in maniera indipendente, almeno 3 medici avevano immaginato quella possibilità. Una soluzione di citrato abbastanza concentrata da impedire la coagulazione, ma abbastanza diluita da risultare innocua per il trasfuso. Come se avessero prese agito il massacro che di lì a poco avrebbe imposto libagioni di sangue. L'emorragia dei soldati hanno dato un grande contributo allo studio della trasfusione. La più terrificante crisi organizzativa della modernità ha partorito i capostipiti di 2 forme d'ordine di opposta natura. Da una parte la trincea, tecnologia dello sterminio, diretta ad annientare la vita, e dall'altra lo scambio di sangue facile e sicuro, primo tassello di un'umanità collettiva e immortale. Natalia si avvicina a Bazarov e gli passa le dita sul braccio. Più che un massaggio, una carezza rilassante. Senza dire nulla, raccoglie un piccolo bisturi. L'ago, pronto nell'altra mano, già innestato su un tubicino di gomma. L'assistente afferra l'estremità libera e la introduce nell'ampolla con il citrato di sodio. Il bisturi taglia la pelle sopra la vena basilica. Natalia inserisce l'ago. Bazarov mugula con le labbra serrate. Il sangue scende nella bottiglia e l'assistente la agita per mescolarlo al citrato. «Apri e chiudi il pugno», suggerisce Natalia, e già si prepara a ripetere l'operazione con il giovane Kiryakov. Ci vuole un quarto d'ora per riempire l'ampolla fino alla tacca da 800 centimetri cubi. Quella di Bazarov appartiene al kit originario, acquistato da Hallen e Hounsbury, Wigmore Street, Londra, nella primavera del 1921. Il viaggio al seguito di Krasin, commissario del popolo per il commercio estero. Krasin l'ingegnere, tornato in politica dopo una brillante carriera negli stabilimenti Siemens di Berlino, Mosca, San Pietroburgo. Krasin il bombarolo, accolto a Downing Street dal primo ministro della colonna britannica, conte Lloyd George de Dwyfor. Scopo del viaggio: firmare un importante trattato commerciale. Scopo dell'accompagnatore: togliersi per qualche mese dall'Unione Sovietica, lontano dai rinnovati attacchi di Lenin. Ore passate alla British Library per dare basi scientifiche a un vecchio sogno marziano. Ore a camminare da una libreria all'altra, fino all'incontro con quel volume, fresco di stampa, in un palazzo di fronte alla facoltà di medicina. Blood Transfusion, di Geoffrey Keynes, luogotenente medico dell'esercito reale e fratello minore del noto economista. Nell'ultimo capitolo del trattato, l'autore descriveva un metodo semplice, sicuro ed efficace per lo scambio di sangue. Poche pagine, divorate su due piedi, di fronte allo scaffale, fino alla sorpresa delle righe finali, mai più dimenticate. La completa sostituzione del sangue circolante non è mai stata tentata sugli adulti, ma il processo è fattibile, ammesso che si abbiano abbastanza donatori. In questo modo, qualche vegliardo potrebbe garantirsi quel ringiovanimento che finora è stato ottenuto, si dice, solo da un medico viennese con il trapianto di gonadi di scimmia. Il libraio aveva dovuto tirarlo per una manica, domandando se intendesse comprare il libro oppure limitarsi a leggerlo a scrocco. Per sicurezza ne aveva prese due copie, casomai una si fosse smarrita nel viaggio di ritorno. L'ampolla è piena per tre quarti. Natalia procede con i preparativi sul braccio libero. Pulizia con etere e iniezione di novocaina. Terminato il prelievo, rimuove il laccio emostatico, sfila l'ago dalla vena e tampona il piccolo ematoma. Fa portare dagli assistenti due bottiglie d'acqua e ordina ai pazienti di consumarla a piccoli sorsi. Adesso immergeremo le ampolle con il sangue in un bagno d'acqua calda per mantenerle alla giusta temperatura. Come vedete, le ampolle hanno due aperture. Questa sul collo, che abbiamo usato per riempirle, e questa sul beccuccio laterale, che di solito serve a versare il contenuto ma che noi useremo in un altro modo. Chiudiamo l'apertura più grande con un tappo di gomma forato e nel buco infiliamo questa cannuccia di vetro. Le parole di Natalia accompagnano i gesti come la voce di un ruscello e i suoi balzi tra le rocce. Impossibile tenerli distinti. La spiegazione è parte dell'azione, non una didascalia sovrapposta dalla mente al lavoro del corpo. L'empiriumonismo non potrebbe trovare un esempio più elegante. Bazarov ne è talmente rapito che sembra ragionare anche lui su quel risvolto filosofico. Un assistente approfitta della sua distrazione e lo sottopone all'intervento più delicato. Disseziona col bisturi la vena basilica, la solleva con un piccolo forbice e la lega con un filo sottile, più stretto a valle, più lento a monte. Questa volta Bazarov non se ne accorge nemmeno. Si vede che la novocaina era più concentrata. Sul beccuccio dell'ampolla inseriamo un soffietto di gomma, che servirà per pompare aria, aumentando la pressione all'interno del recipiente. L'infermiere porge a Natalia un gocciolatore, collegato da un tubicino a una cannula di vetro. Ora versiamo qui dentro una soluzione salina e pinziamo il tubicino subito prima della cannula, in modo che il liquido non goccioli via. Il secondo assistente si siede accanto al letto di Bazarov, con il bisturi in mano. Questo sistema è studiato per evitare che una bolla d'aria entri in circolo durante la trasfusione. L'assistente incide in diagonale la parete della vena, inserisce la cannula e stringe la legatura a monte. Attacchiamo il gocciolatore alla cannuccia di vetro che fuoriesce dall'ampolla in modo che l'estremità si immerga nella soluzione salina. L'assistente toglie la graffetta in fondo al tubicino. Quindi pompiamo aria con il soffietto. Il sangue sale nella cannuccia, arriva al gocciolatore e spinge la soluzione salina nelle vene del paziente, Terminata quella, inizia la trasfusione vera e propria. Come da copione, Bogdanov interviene con l'unica battuta che gli è concessa, mentre gli infermieri si dedicano a Kiryakov. Un leggero pizzicore al braccio è normale. Se invece doveste sentire un formicolio doloroso in vari punti del corpo, mal di testa, respiro affaticato e fitte nella regione lombare, dovete avvertirmi immediatamente. Natalia aggiunge che l'operazione durerà una mezz'ora. Poi ricuciremo la ferita e per le 5 del pomeriggio sarete in grado di alzarvi e unirvi al dottor Bogdanov nella nostra sala ricreativa. Un tè caldo, ben zuccherato, è quel che ci vuole dopo una trasfusione. Bogdanov riempie le tazze del grande samovar, le appoggia sul vassoio di vimini, taglia due fette di pan pepato e ritorna verso il tavolo comune, dove Bazarov e il giovane Kiryakov sono già presi da una fitta discussione. Qualche sedia più in là, Danny è in compagnia di due studenti, con una copia dell'Izvestia spalancata tra loro. Non si può trattarla sempre da bambina, con la balia al seguito. Ha 20 anni, sa cavarsela da sola, e frequentare i coetanei la costringe a tenere i piedi per terra. La sala più grande dell'istituto, al termine dell'orario di lavoro, si trasforma in un club, simile a quelli delle fabbriche più importanti. Lo spazio è limitato, non può certo ospitare un'orchestra sinfonica o gara di ginnastica, ma sugli scaffali c'è un'ottima selezione di romanzi, curata da Natalia, e gli avventori possono scegliere tra 5 quotidiani, 20 riviste, 6 scacchiere, oltre a una fonte inesauribile di tè, accompagnato dai dolci che ciascuno può offrire. Qualche volta c'è musica, grazie al grammofono abbandonato dai vecchi proprietari del palazzo. Qualche volta, addirittura, si balla. Alle pareti, per coprire le decorazioni più stucchevoli, il direttore ha fatto esporre la sua collezione di quadri e disegni, regali di artisti operai, in ricordo dei suoi insegnamenti. I due lampadari di ferro, che spiovono dal soffitto, sono il dono di un saldatore di Orel, appassionato di scultura e filosofia. Rappresentano Prometeo incatenato e l'aquila che gli mangia il fegato. Sotto le loro luci, una lunga tavolata accoglie chi studia e chi scrive, chi legge e chi chiacchiera. Bogdanov si fa strada, reggendo il vassoio con entrambe le mani, attento a non ribaltare le tazze. Quando l'efficacia delle trasfusioni sarà dimostrata, l'istituto si dedicherà soltanto alla ricerca, mentre in ogni rione sorgeranno luoghi come questo dove scambiare sangue, cibo, conoscenze e creatività. Il direttore distribuisce le tazze e il panpepato senza dire nulla, per non interrompere la conversazione. Il ragazzo arrossisce e ringrazia con timidezza. La sua generazione conosce ancora l'imbarazzo di vedersi servire da un uomo più anziano. Il collettivismo fisiologico renderà obsoleta anche tale deferenza. L'anno di nascita delle persone cesserà di essere importante quando il loro sangue non avrà più un'età precisa. Vecchi e giovani smetteranno di esistere. Il compagno Bazarov, riepiloga lo studente per trarsi d'impaccio, mi stava domandando cosa mi ha spinto a offrirmi volontario per le trasfusioni. Dice che è per contribuire alle tue ricerche sull'immortalità, Bogdanov, lo anticipa l'altro con sarcasmo. Il ragazzo deve essere caduto nel solito equivoco, l'immortalità confusa con il miraggio di vivere per sempre, colpa delle terapie di ringiovanimento, l'ultima moda di questi anni venti. Principi, duchi e famosi artisti spendono una fortuna per la vasectomia di Steinach o il trapianto di testicoli di scimmia. Così, quando uno parla di prolungare la vita, tutti pensano alla propria esistenza e si diffondono le dicerie su Bogdanov lo stregone, Bogdanov l'alchimista. «Qualunque medico aspira a sconfiggere la morte», si schermisce il direttore, mentre Bazarov addenta la sua fetta di torta. Una frase banale, strano che l'amico non gliela contesti. Quando studiavano insieme all'Università di Mosca, il professore di scienze naturali amava ripetere che la vita è una malattia cronica e mortale. Si può solo rallentarne il decorso, altro che sconfiggere la morte. «Quel che mi entusiasma del vostro lavoro», insiste il ragazzo, «è che non volete produrre un elisir di lunga vita riservato ai ricchi. Grazie a voi, ogni individuo diventerà immortale con il contributo della collettività». «Al contrario», puntualizza il direttore. È il collettivo che diventerà immortale grazie al contributo degli individui. La vita eterna si coniuga alla prima persona plurale. Al singolare è un ossimoro. Bogdanov tuffa nella sua tazza due zollette di zucchero e le osserva sciogliersi nel nuovo ambiente, come pensieri troppo densi a fine giornata. Il nostro cervello, prosegue, ha bisogno di novità e in un tempo infinito la novità si estingue, tutto si ripete. Abbiamo la sensazione che accada nell'arco di 50 anni, figuratevi in 500. Cosa vi resterebbe da fare dopo esservi innamorato 90 volte, aver visto nascere 60 figli, aver imparato a lavorare la creta, a scrivere sublimi poesie, a scalare le montagne più alte, a combattere sempre le stesse battaglie? Solleva la tazza e la porta alla bocca, come pausa studiata. L'unica risposta sarebbe il suicidio, perché l'immortalità individuale è una condanna a vita. Dall'espressione del ragazzo si direbbe che non ci abbia capito granché, o magari credeva davvero che qualche trasfusione gli avrebbe permesso per sempre di dire io. Bazarov sorseggia il tè, come se fosse cicuta, e l'effetto benefico dello scambio di sangue sembra già sparito dal suo volto crucciato. «Ci salverà l'oblio», si illumina Kiryakov d'un tratto. «Proprio perché ha bisogno di novità. Il nostro cervello dimentica i volti e le emozioni già dopo 20 anni. In una vita eterna faremo in tempo a imparare ogni disciplina, a dimenticarla e a desiderare di impararla da capo». «Avete ragione», ammette Bogdanov, «ci salverà l'oblio. Ma un oblio più radicale di quello che pensate. L'oblio di se stessi, la consapevolezza di essere parte di un tutto e che solo quel tutto vive davvero». Lo studente non ribatte, rimane assorto, con il gomito sul tavolo e il mento incastrato tra pollice e indice. Poi si riscuote e batte le mani, nella parodia involontaria di un uomo colpito da un pensiero improvviso. «A proposito di memoria», dice con aria imbarazzata, «mi stavo dimenticando che ho promesso a mia madre di passare a salutarla dopo la trasfusione. Sapete, per rassicurarla. Dite che posso andare?» «Dipende da voi», risponde il direttore. «Se vi sentite bene, niente mal di testa o difficoltà respiratorie, e se non dovete camminare per chilometri con questo freddo, direi che siete libero di andare dove volete». Il ragazzo ringrazia, saluta entrambi con una stretta calorosa e si congeda in un vortice di movimenti sgraziati. Bazarov prova a indirizzargli un sorriso, ma la smorfia che trova sarebbe più adatta a una cattiva digestione. Forse la trasfusione non è andata bene come sembra, oppure la malattia, l'esaurimento sovietico, è più grave del previsto e già prende il sopravvento, nonostante la terapia e l'atmosfera conviviale. «Vieni, sediamoci a quel tavolino», propone Bogdanov, casomai fosse la gente attorno a opprimere l'amico. Le tazze di tè traslocano nell'angolo più appartato. Le poltrone sono più comode. La piccola lampada con paralume disegna un confine d'ombra col resto della stanza. «Quando Natalia mi ha detto che saresti venuto per una trasfusione, ho pensato a un errore. Ti ricordavo in ottima forma, preso dai piani per l'economia». Bazarov si arriccia i baffi con le dita, il suo tipico gesto per le confessioni tristi. «Poi ho consegnato i primi studi, e da lì sono cominciati i guai». «C'era troppa tecnologia?» prova a scherzare Bogdanov, ma l'altro non si riscuote e l'ironia non lo sorprende. Difficile stanare un amico che conosce a menadito le tue strategie. «Al contrario, quella piace a tutti. Basta non chiamarla con il nome che le hai dato tu. Del resto, cosa c'è di più tecnologico di un ufficio centrale che pianifica la produzione, il consumo, gli scambi, la divisione del lavoro?» «Tutto questo, ma senza aggressione». Bazarov si lascia sfuggire un'espressione annoiata. La terminologia tecnologica non gli è mai andata a genio. «La pianificazione senza ufficio centrale», spiega Bogdanov, «senza un gruppo di persone che domina gli altri perché ha il potere di organizzarli». Inutile nasconderlo. Se negli ultimi anni la loro amicizia si è raffreddata, è perché sanno entrambi che il Gosplan, l'ufficio di Bazarov, è una creatura bifronte, che celebra e minaccia con lo stesso fiato quanto hanno predicato in decine di articoli. «Ricordi?» riprende Bazarov, quasi captasse quei pensieri con un orecchio speciale. «Bukharin scrisse che eravamo stati noi due, i primi a blaterare di degenerazione burocratica». Le tazze sono vuote. Bogdanov si alza per riempirle ancora. «Non so tu», dice prima di allontanarsi, «ma io non ho mai usato quel termine. Ed è per questo che ti contrastano?» La risposta arriva al suo ritorno, insieme al vapore dell'infuso caldo. «Dicono che le mie stime di crescita sono troppo caute, perché non ho fiducia nell'Unione Sovietica. Io rispondo che non è questione di fiducia, ma di equazioni, altrimenti sarei come quei ciarlatani che annunciano un futuro affinché si realizzi». «È come ho fatto io con i miei romanzi», si autoaccusa Bogdanov. In un romanzo si può, concede l'altro. In un trattato di economia, no. Eppure, l'hai scritto tu che la pianificazione economica non è solo una previsione, ma anche una direttiva. O sbaglio? Quindi non puoi limitarti alle equazioni, devi metterci anche l'immaginazione. Bazarov si anima e prende a gesticolare. Distribuire nei villaggi i migliori prodotti dell'industria, a un prezzo dimezzato. Ecco la direttiva, quello che ho immaginato. Per spingere i contadini a vendere i loro prodotti e a migliorare la coltivazione. In caso contrario, la produzione agricola peggiorerà, i contadini si terranno in raccolto e il governo sarà costretto a requisirlo con la forza, alla faccia del socialismo. E siccome oggi il risultato è proprio questo, mi accusano di aver immaginato un rimedio irrealizzabile, per poi attaccare le requisizioni. Alle mie spalle dicono che non ci si può aspettare nulla di meglio da uno che ha criticato la rivoluzione fin dai primi giorni. I famigerati articoli di Bazarov dell'autunno 1917. Bombardamenti a palle incatenate. Definiva i bolscevichi un partito di soldati e piccolo borghesi, Lenin un impostore anarchico e il governo rivoluzionario una dittatura senza un briciolo di socialismo. In confronto, la lettera di Bogdanov a Lunacharsky era un rimbrotto amichevole. Eppure a Bazarov è andata meglio. Durante la guerra civile, quando la GPU lo arrestò con l'accusa di essere un agente dei bianchi, Lenin in persona lo fece scarcerare e lo richiamò a Mosca. Da allora ha smesso di scrivere di filosofia per dedicarsi all'economia. Se ti specializzi e rinunci a una visione d'insieme, hai la vita tranquilla. Lo stesso è capitato a lui, da quando si occupa solo di trasfusioni. «Sono mesi che mi fanno riscrivere un documento importante», continua Bazarov. «Mi dicono di aggiustare un paragrafo e poi di aggiustarlo ancora e ancora. Finché, a forza di cambiamenti, non mi spingono a riproporre la versione iniziale, per poi stroncarla con nuovi argomenti. Quando parlavi della noia di una vita eterna, descrivevi il mio caso». «Era di me che parlavo», dice Bogdanov con amarezza. Solleva il piatto con le briciole del pan pepato per domandare all'amico se ne desidera un'altra fetta. Ma Bazarov fa segno di no e sembra voler dire che anche di quel discorso ne ha ormai abbastanza. «È un pezzo che voglio chiederti una cosa», lo accontenta Bogdanov. «Ricordi Leonid Volokh?» «Chi?» «Volokh, l'operaio che rimase traumatizzato dallo scoppio di una bomba durante la rapina di Tiflis. Quello che rideva in quel modo scomposto? Proprio lui». Bazarov sonda i ricordi e le rughe sulla fronte si distendono. «Lo incontrai a Capri, se non mi sbaglio. Di sicuro non l'ho più rivisto».